vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 gennaio, il sole in regione sorto alle 7.39 tramonterà alle 17. Giovedì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Apertura di trasmissione oggi dedicata al bosco, ai ruoli diversi e strategici nella vita ed economia del territorio regionale, che deve fare i conti con eccellenze ma anche problemi. A seguire una scheda sul fosforo per la rubrica del bio, dove Cristina Micheloni ci racconta come siamo capaci di acquistarlo all'estero a caro prezzo per poi sprecarlo inquinando. Nella rubrica della vita è la volta degli acidi organici, tartarico, malico e citrico, nei rapporti con il vino. Per l'orticoltura oggi in scena lo spinaccio, pianta semplice da coltivare anche da noi per grandi soddisfazioni. A seguire una scheda sulla Brovada, forse il prodotto tipico per eccellenza della terra friulana, oggi in un inquadramento storico, mentre Roberto Zotar, nello spazio della gastronomia, intesse una lode al sugo d'arrosto, alias Fondo Bruno, primo attore per molti piatti. Come di consueto in chiusura, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Cambio al vertice della società cooperativa Legno Servizi di Tolmezzo. È arrivato Carlo Piemonte e tra le prime cose un restyling del sito di Legno Servizi. Gli chiediamo subito: perché vi affidate anche ai siti per parlare di bosco, per parlare di legno, per avere una interlocuzione tra voi e gli addetti ai lavori del bosco? Il restyling del sito è il primo punto, il punto di partenza per dare una visione che valorizzi la cultura del legno anzitutto e l'identità delle imprese che ogni giorno operano su questo comparto. Ricordiamoci che è una filiera che va dal bosco fino alla segheria, quindi diciamo le prime fasi. Ecco allora che comunicare correttamente e anche far capire che il bosco e il legno del Friuli Venezia Giulia sono concepibili in una chiave moderna, costruzioni, oggetti, è sicuramente una delle prime sfide, ma di certo non l'ultima. Cominciamo dall'ambiente, bosco e ambiente, come sta andando? È un periodo complesso, indiscutibilmente complesso, perché abbiamo da un lato tutto quello che è collegato al post-vaia, che comunque ha lasciato un segno e tuttora stiamo gestendo per portare via i residui che sono rimasti, e questo la regione ha fatto una proroga importante sugli indennizi che ha permesso alle imprese di continuare a lavorare. Parallelamente c'è un tema legato al cambiamento climatico, un cambiamento climatico che va a condizionare la diffusione anche di parassiti, piuttosto che le colture iniziano a cambiare. Bosco ed economia. Lì è una sfida ampia perché tutti noi conosciamo l'industrializzazione, ad esempio, delle segherie del oltreconfine, che non vuol dire guardarla in modo lontano, in modo non amichevole, ma semplicemente vuol dire che noi per crescere dobbiamo industrializzarci di più. Io da sempre, si sa che sono anche il direttore di tutto il sistema Legno Arredo del cluster, guardo come migliorare noi, non tanto a fare la garetta con gli altri. Bosco e futuro, in Friuli Venezia Giulia ovviamente. Il bosco è il futuro. Se pensiamo all'assorbimento della CO2, quindi quanto l'albero trattiene al suo interno, è qualcosa di fenomenale. Attenzione però, un bosco gestito. Ecco, la gestione del bosco forse è un pochettino carente o forse non viene valutata nella maniera giusta da noi. Sì, lasciare un bosco abbandonato dopo un po' non rende, ma non voglio dire economicamente, come ecosistema. C'è uno studio recente fatto da PFC Italia che dimostra come un bosco gestito assorba solo nei primi anni già il 23% in più di quello che è il CO2 o altre cose. Ricordiamoci che abbiamo tante proprietà private, tantissime, che vanno gestite e che attualmente magari non conosciamo i proprietari. Bosco e politica. Le politiche del bosco sono sufficienti? Si potrebbe fare di più o si dovrebbe fare dell'altro? Partiamo dall'alto. Von der Leyen prima volta cita il legno nel suo discorso inaugurale come uno degli elementi, grande passo avanti. Il legno è un materiale da poter costruire, fare carta, fare energia, fare oggetti. Giù, in Italia, aspettiamo decreti attuativi della legge forestale. Attualmente col rimpasto, con il cambio del governo, tra cui è saltato il ministro dell'agricoltura, a livello regionale c'è in corso un'importante attività di sviluppo dell'economia del legno FVG e il dialogo con l'assessorato alle foreste e l'attività produttiva è costante. Adesso approfittiamo della sua duplice veste, bosco e arredo. In realtà il nostro legno è una specie di legno, è un tipo di legno che non puoi farci tendenzialmente le sedie come immaginiamo nel distretto della sedia. Viceversa, il nostro legno, soprattutto certe tipologie, può servire per fare o i pannelli o gli elementi costruttivi che sono molto di valore, immaginiamo le travi. L'importante è industrializzare questo processo per poter fare una filiera corta e trattenere quanto più valore aggiunto sul nostro territorio. Anche il fosforo, elemento strategico per la nostra vita, sta subendo lo stesso trattamento che riserviamo a tante altre cose. Lo compriamo, lo sprechiamo e inquiniamo. Ma non è infinito, come ci ammonisce oggi Cristina Micheloni. Il fosforo, quello che appare come P nelle etichette dei fertilizzanti, è un elemento essenziale per lo sviluppo delle piante, dall'effettuare la fotosintesi a trasferire l'energia a costruire le proteine. Nel corpo degli animali, umani inclusi, è fondamentale per la costruzione dello scheletro e per la stragrande maggioranza dei processi che ci tiene in vita. Stime riportano che senza l'utilizzo di fosforo da miniera, con l'attuale sistema agricolo ed alimentare, si riuscirebbe a sfamare un quinto della popolazione mondiale soltanto. In agricoltura convenzionale il fosforo viene abbondantemente distribuito sotto forma di iperfosfati, che utilizzano il fosforo estratto da miniera. Il problema, di cui l'Europa si sta rendendo conto, è che tutte le fonti di fosforo, le miniere appunto, stanno in Cina, negli Stati Uniti e in Nord Africa. E siccome le riserve si stanno esaurendo, è ben probabile che chi possiede le miniere si tenga il fosforo, oppure lo venda a caro prezzo. Tanto per chiarezza, il 90% del fosforo estratto va alla produzione di fertilizzanti, quindi gli altri settori pesano davvero poco. Ma il fosforo utilizzato nei campi diventa cibo e mangimi, nonché deiezioni, umane e animali. E qui arriva il paradosso. Tutte le deiezioni, lo scarto alimentare e i resti degli animali sono ricchi in fosforo, tra l'altro in forma organica, ma in larghissima parte non viene recuperato, bensì diventa un inquinante che quando arriva al mare causa eutrofizzazione e danneggia gli equilibri marini. Quindi lo compriamo, lo sprechiamo e inquiniamo. Che fare? Come al solito la soluzione non è una, ma è un insieme di strategie e di azioni che cominciano da valutare se davvero e quanto fosforo ci serve nei campi, considerando non la quantità totale ma quella disponibile per le piante. Poi bisogna iniziare a rendere maggiormente disponibile appunto quello che c'è tramite l'incremento dell'attività microbiologica del suolo. È vero che si possono comprare i microrganismi, le micorrize e distribuirli, ma molto più lungimirante e risolutivo è gestire il terreno con intelligenza, evitando le lavorazioni pesanti e apportando quanto più sostanza organica possibile. Così l'attività microbiologica si sviluppa da sola. Poi riciclare. Riciclare le deiezioni animali in campo in modo intelligente e non come smaltimento di costoso rifiuto, e riciclare attraverso la produzione e l'uso di fertilizzanti organici, dove il fosforo deriva sia dalle deiezioni che dai residui dei mattatoi. Poi la grande fonte, non solo non utilizzata, ma anche causa di seri problemi ambientali, le deiezioni umane e i fanghi di depurazione di diverse attività antropiche. Tanto per citare un esempio, le microalghe possono essere in grado di depurare le acque e fissare gli elementi nutritivi, tra cui il fosforo, nella propria biomassa, che poi può essere utilizzata come fertilizzante. Altro esempio, esiste già un processo per separare il fosforo dalle acque di risulta degli impianti di depurazione. Se ne ricava il fosforo sotto forma di struvite. Di fosforo buona parte dei nostri terreni friulani ne ha in abbondanza, grazie alle laute concimazioni di decenni. Iniziamo con evitarne la perdita e col metterlo in circolo. Per la rubrica della vita del vino, il professor Roberto Zironi ci parla degli acidi organici caratteristici dell'uva e dei mosti, ovvero il tartarico, il malico e il citrico. Oltre alla componente zuccherina, un'altra componente fondamentale dell'uva sono gli acidi organici. L'acido organico principale è il tartarico, che possiamo definire caratteristico dell'uva, in quanto in natura è poco diffuso, è un acido molto stabile da un punto di vista microbiologico, in quanto è attaccato da pochi microrganismi, ma è invece instabile da un punto di vista chimico-fisico perché può precipitare sia nel mosto che nel vino. La sintesi, diciamo, di questo acido è massima al momento dell'invaiatura e dopo questa fase l'acido accumulato all'interno della bacca subisce delle piccole modificazioni che si manterranno quindi sino alla maturazione e la sua concentrazione quindi potrà essere variata soltanto in conseguenza delle precipitazioni durante la vinificazione. L'acido malico è il secondo acido come importanza presente all'interno del frutto e, a differenza dell'acido tartarico, presenta una elevata instabilità biologica. Quindi, a differenza dell'acido tartarico, la sua modificazione nel corso della vinificazione è conseguente più a delle modificazioni dovute ai microrganismi responsabili della vinificazione piuttosto che a sue insolubilizzazioni per precipitazione. Data questa sua elevata variabilità in conseguenza di attività biologiche, Anche nel corso della maturazione può subire delle notevoli variazioni, in dipendenza specialmente dai fattori ambientali, quali temperatura, nel luogo diciamo di maturazione, e quindi conseguentemente al momento della raccolta troveremo delle quantità molto diverse di questo acido in funzione dell'ambiente di maturazione. La sua modificazione compositiva nel corso della vinificazione, per effetto di una fermentazione chiamata fermentazione malolattica, ne potrà poi in alcuni vini diminuire anche il sapore aspro, il sapore da mela verde per intenderci, che ne dà invece un significato molto importante quando questi caratteri di freschezza sono richieste in alcune tipologie di vino. Infine, l'ultimo acido è l'acido citrico, che lo consideriamo come un acido poco importante in quanto la sua concentrazione sarà sempre massima intorno a qualche centinaio di milligrammi e che presenta analogamente al malico una notevole instabilità da un punto di vista biologico, per cui spesso nei vini non ne troviamo la concentrazione significativa. Globalmente cosa possiamo dire quindi? Che il massimo degli acidi organici lo troviamo nei frutti al momento dell'invaiatura. Dall'invaiatura in poi, in conseguenza delle caratteristiche ambientali, potremmo avere delle modificazioni minime a carico dell'acido tartarico, molto molto intense e significative invece a carico dell'acido malico, quindi a determinare al momento della maturazione un profilo acidico e sensoriale molto diverso nelle uve maturate in ambienti e climi diversi. Sara Bosco, per lo spazio dell'orticoltura, ha preparato una scheda sullo spinaccio che con qualche semplice accorgimento possiamo coltivare con soddisfazione anche noi. Oggi ci occupiamo degli spinaci. Lo spinaccio è una pianta rustica che teme solo i terreni molto argillosi perché si può verificare un eccessivo ristagno idrico. Perciò risulta molto importante la fase di preparazione del terreno che deve permettere un adeguato drenaggio delle acque in eccesso. Esistono in commercio sia varietà primaverili estive che autunno invernali in funzione del periodo di messa a dimora. È preferibile impiegare dei semi in quanto più economici ed essendo delle piante a rapida crescita non risulterebbe vantaggiosa la plantula. I semi dello spinaccio sono molto piccoli, perciò il terreno è importante sia sminuzzato accuratamente, non necessariamente addizionato con concimi se si presentano già con una buona fertilizzazione, e in un solco di una profondità di 1,5 cm. Si preferisce seminare a file, anche se spesso viene seminata a spaglio, distanti circa 20-40 cm, in quanto le erbe infestanti possono essere davvero un problema durante la coltivazione, e a queste distanze si può intervenire con delle sarchiature, mentre sulla fila si sceglie di solito una distanza di circa 15 cm. L'irrigazione è importante, in particolare al momento dell'emergenza e nelle prime fasi di crescita, preferendo interventi frequenti e di poca entità. Un accorgimento importante da considerare è di evitare un eccessivo apporto di azoto, perché questo elemento si va a depositare nelle foglie e può diventare tossico. Perciò bisogna evitare di far seguire o di precedere allo spinaccio piante appartenenti alla sua stessa famiglia. Può essere colpito da alcune malattie fungine se si verifica ristagno idrico nel terreno, ma generalmente si riesce ad intervenire con derrame. Mentre sono più rari gli attacchi degli insetti. Si può raccogliere sia le foglie che le piantine intere. Nel caso delle foglie il sesso di impianto è ridotto e possono essere impiegate sia crude in insalata che, come avviene comunemente, cotte. Ha delle ottime proprietà nutrizionali, infatti oltre all'elevato contenuto in ferro hanno molte fibre, vitamine e sali minerali. È uno dei cibi simbolo della terra friulana che affonda le sue radici nella storia della gente e del territorio. Stiamo parlando della brovada che Adriano Del Fabbro ci inquadra storicamente in questa prima scheda dei prodotti tipici. Alimento friulano molto antico e rustico, la brovada ha un nome intraducibile. Già Marco Gavio Apicio, maestro romano di cucina vissuto nel primo secolo d.C., nel suo De Re Coquinaria, suggerisce di conservare le rape sotto l'aceto. La brovada si palesa anche in un accadimento pordenonese dell'aprile 1478, raccontato dallo storico Jacopo Valvasone di Maniago, che scrive: come una madre, per sfuggire dalla furia dei turchi, lasciato il fanciullino in terra, s'ascose dietro a un tinazzo che era pieno di rape conservate nei raspi d'uva, come ancora si costuma a fare in questi nostri paesi. Nella metà del 1700 i conti Rabatta ordinano alla servitù di cucinare alla domenica un piatto di sbruada, accompagnata con roba porcina. Gli annali dell'agricoltura del Regno d'Italia dell'inizio del 1810 pubblicano uno scritto concernente della maniera di conservare le rape nell'inverno e prepararne un cibo di ottimo gusto usato nel Friuli, dove il professor Filippo Re dell'Università di Bologna descrive la tecnica di preparazione della brovada, in cui uso è talmente diffuso nella dieta dei friulani da essere inserita nel regolamento alimentare carcerario nel 1844 per le forniture alla casa di pena di Gradisca, allora in territorio asburgico. Dal canto suo Ippolito Nievo fa mangiare la brovada al brigante Spaccafumo nelle pagine del suo famoso romanzo Le confessioni di un italiano, scritto nel 1858. Il musetto con la brovada è l'unico piatto friulano inserito nell'edizione del 1909 della Nuova cucina delle specialità regionali compilata da Vittorio Agnetti. La guida gastronomica del Touring Club italiano nel 1931 certifica che la brovada è cibo antico popolare in tutto il Friuli, mentre nel 1935 la voce brovada, il vocabolario Nuovo Pirona recita cibo popolare assai comune in Friuli fatto di rape, ras di brovade, inacidite e conservate in untino con vinace, la trape, acide e acqua, quindi ridotte in filamenti. Nel 1941 sul periodico Cefasto Giuseppina Perusini Antonini pubblica alcune ricette con la brovada. Nel 1943 sulla stessa rivista Mario Argante scrive un canto nostalgico dedicato alla brovada. Anche Orte Cusine di Guerre, pal 1943, pubblicato dalla Società Filologica Friulana, consiglia alla massaia la preparazione di alcune buone ricette con la brovada. E nel 1949 il periodico La Panarie pubblica una poesia di Don Giuseppe Driulini dedicata alla brovada. Il sugo dell'arrosto, ovvero la riscoperta del fondo bruno, è il titolo del contributo di Roberto Zotar allo spazio che dedichiamo alla gastronomia. Nelle trattorie troviamo pietanze condite con abbondante sugo d'arrosto e da bambino mi chiedevo sempre come facessero ad avere tanto sugo, perché mamma dal suo arrosto ricavava solo alcune cucchiaiate, tra l'altro poi di grasso trasparente con delle saporite chiazze di sugo molto scuro. In trattoria, al contrario, il sugo era bello uniforme, legato, saporito e assolutamente non grasso. Con il tempo ho capito che al ristorante questo sugo proveniva da un fondo che non è un avanzo di ciò che rimane nella padella dopo la cottura, ma è una riduzione di liquido appositamente preparata. Nati nel 600 ma codificati da Escoffier a fine 800, i fondi sono stati dimenticati sotto l'azione dell'alleggerimento dei piatti della nouvelle cuisine, anche in ottica salutistica, ma ora assistiamo ad una loro rinascita e l'alta cucina degli ultimi anni ne ha trasformato l'impiego, non l'uso. Il loro ruolo risulta importante non solo come insaporitori, ma anche per raggiungere certe consistenze al palato. I fondi si classificano in bianchi o bruni e la differenza non sta nel tipo di ingredienti usati, ma sostanzialmente nella rosolatura preventiva di ossi e carcasse in forno ad alta temperatura, necessaria per il fondo bruno, assente in quello bianco. Il classico fumetto di pesce e la bis di scampi sono fondi preparati con verdure e lische di pesce o carapace, mentre se usiamo carcasse di selvaggina otteniamo un fondo di selvaggina. Ogni tipo di fondo ha bisogno di una lunga cottura a fuoco molto lento senza coperchio. Tostate in forno a 250 gradi per mezz'ora gli ossi di un animale e parature della sua carne, manzo, vitello, pollo o selvaggina. Scartate il grasso e mettete poi gli ossi in una pentola sul fuoco con carote, sedano, cipolle, erbe aromatiche, pomodoro, qualche fungo secco, coprite d'acqua e poi di cubetti di ghiaccio. Fate cuocere per 6 ore, schiumando spesso e poi filtrate. Dal fondo bruno, facendo ridurre ulteriormente il liquido, si ricava la demi-glace, salsa gelatinosa, ideale anche per insaporire una scaloppina. Se è pur vero che realizzare a casa i fondi richiede tempo, non è certo un'operazione impossibile. Tra l'altro si possono preparare in gran quantità e congelare nelle vaschette di ghiaccio per averli sempre pronti all'occorrenza. Il fondo più versatile è quello di vitello, che si adatta bene a ogni tipo di preparazione. Avere qualche cubetto di fondo nel vostro freezer vi consentirà di preparare splendide salse, zuppe, pietanze e creme più saporite, oltre che dare anche una marcia in più ai vostri già splendidi risotti. Buon appetito! E E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli? Ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole da cambio di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 20 e 80 21 euro il quintale, IVA esclusa, il frumento tra 21 e 70 22 euro, l'orzo con peso specifico 60 a 63, 19 19 50 e la soia tra 48 e 60 48 e 90. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 4,70 euro e la soia di 14 e 10 centesimi il quintale. Passando ai bovini da macello si rileva una situazione stabile nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,10 e 2,40 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,40 e 2,10. Pure il mercato delle vite da ristallo conferma quotazioni stazionarie e l'ultimo andamento rileva i blubelga maschi pagati tra 5,70 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 3,80 e 4,30, i frisoni tra 1,30 e 1,60, i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo si rilevano spunti di ripresa per il valore delle attonzole di 30 kg, franco partenza. I prezzi si fissano a 2,34 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono quotati da 1,20 il chilo. Domanda confermata con quotazioni stabili nel settore caseario e il prezzo del montaggio fresco è compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa. Quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30 e le uova da allevamenti a terra oltre i 73 grammi a 16,50 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nelle ultime due settimane le condizioni meteo sono state prettamente invernali, con una maggiore aderenza al canone di gennaio, freddo e stabile. Le temperature sono rimaste basse, sia nei fondovalle montani, grazie alla presenza quasi a tutte le quote di neve al suolo che ha favorito l'irraggiamento notturno e quindi il ristagno del freddo nei bassi strati, che in pianura, dove le minime sono rimaste sotto zero quasi ogni giorno. Guardando le temperature medie giornaliere, la pianura si è collocata circa 3 gradi sotto la norma. Un graduale aumento delle temperature si è registrato negli ultimi giorni, grazie all'avvicinamento di una vasta depressione atlantica che ha fatto affluire correnti più umide e miti. Il culmine si è raggiunto tra venerdì e sabato, con il passaggio di un sistema frontale associato a precipitazioni, pioggia a bassa quota, neve più in alto, abbondanti o intense. Adesso le correnti ruotano nuovamente a nord-ovest e l'atmosfera tende a raffreddarsi di nuovo. Domani avremo variabilità, non si esclude qualche breve precipitazione e si presenteranno nuovamente alcune gelate notturne in pianura. Le massime saliranno oltre i 6 gradi grazie anche alla crescente incidenza dei raggi solari, col progredire del mese. Tra martedì e giovedì prevarranno le schiarite e i venti saranno deboli, il che favorirà un'estensione e intensificazione delle gelate notturne che potranno interessare localmente anche la costa. Verso il fine settimana continuerà il flusso nord-occidentale che assumerà a tratti curvatura ciclonica, determinando l'arrivo di aria un po' più umida e meno fredda in quota e in parte al suolo. Sabato e domenica potrebbe arrivare poi un nuovo fronte. Vi invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti a cura di Osmer ARPA sulla rete regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. San Paoli lusint gran si ale furmento, ovvero se il giorno di San Paolo, il 25 gennaio, è un giorno lucente, soleggiato, ci sarà abbondanza di grano, segale e frumento. Un'annata buona, dunque. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.